Europa 24. Sono le 14.01, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, Europa oggi vuol dire naturalmente l'attesa proposta legislativa che la Commissione europea di fatto ha presentato stamane per affrontare la crisi dell'immigrazione, la crisi dell'immigrazione economica, dei profughi, dei richiedenti asilo. Insomma, un vero e proprio dramma che ben conosciamo, che racconta l'attualità di questi anni, ma che via via è diventato anche un vero e proprio termometro della complessità dei rapporti all'interno dell'Unione a 28. Allora, il punto intanto nel servizio di Valeria De Rosa. I dettagli ora ci sono. È stato il commissario Avramopoulos a presentarli ufficialmente, anche se, ha specificato, si tratta solo di una parte del piano. Il primo e più controverso punto è la proposta legislativa per uno schema di emergenza obbligatorio per il ricollocamento all'interno dell'Unione di 40.000 richiedenti asilo, 24.000 dall'Italia, 16.000 dalla Grecia. I criteri per la redistribuzione, formula che ha preso il posto delle quote come chiesto e ottenuto dal presidente francese François Hollande, restano quelli già individuati: popolazione, PIL totale del 2013, numero di richieste di asilo e di rifugiati reinsediati per milione di abitanti negli ultimi 4 anni e tasso di disoccupazione nel 2014. Per lo più si tratterà di siriani ed eritrei. Il piano coinvolge tutti, ha affermato il commissario, proprio perché parliamo di richiedenti asilo e non immigrati irregolari, ma gli stati contrari sarebbero una decina. E questo è il primo grande problema che arriverà al pettine del Consiglio Affari Interni dell'Unione del 15 giugno e poi del vertice europeo del 26. Altro problema, tutto italiano e greco, sarà il rispetto degli obblighi imposti da Bruxelles, ovvero presentare una roadmap su accoglienza, rimpatrio e diritto di asilo, pena il blocco del piano. L'Europa si ritrova a trattare sul principio di solidarietà che ancora una volta richiederebbe un passo indietro sulla sovranità nazionale. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutto questo mentre alcuni paesi prendono le distanze, mentre il Regno Unito, anche sull'effetto delle recenti elezioni, rivendica il diritto a riconsiderare il suo ruolo, il suo peso all'interno del sistema. Insomma, per molti l'hanno detto, questo accordo è poca cosa, per altri in realtà è il primo segno di un cambiamento che naturalmente deve fare molta strada, cioè un cambiamento in cui l'Unione Europea comincia ad assumersi in luogo degli stati nazionali appunto la responsabilità su temi che storicamente e tradizionalmente sono attribuzione specifica degli stati. Abbiamo sentito su questi temi una europarlamentare tedesca, si tratta di Birgit Sippel, possiamo cominciarla a sentire. Birgit Sippel dell'Alleanza Progressisti e Socialisti spiega: lo schema di trasferimento è solo un primo passo della nuova politica europea. Se guardiamo bene l'agenda immigrazione della Commissione vedremo che è previsto anche un processo di ridistribuzione dei rifugiati che avrà un respiro pluriennale. Significa che non si tratta solo di affrontare l'emergenza, ma di istituzionalizzare la condivisione di questo impegno. Allo stesso tempo è previsto che esista un piano di sostegno economico ai paesi che sopportano il primo impatto degli arrivi nell'Unione Europea, e ovviamente l'Italia è il principale di questi. Ci saranno più possibilità economiche, ci sarà anche un significativo aumento del personale che avrà il compito, tra l'altro, di lavorare sul lato amministrativo di questa crisi, in particolare sul fronte della registrazione. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento esitante di una parte dei paesi membri, dice l'europarlamentare tedesca, io credo che lo si debba considerare comunque un primo effetto sul quale lavoreremo con tutti i mezzi di cui disponiamo. Per quanto riguarda infine l'Italia, conclude la Sippel, penso che dobbiamo fare il necessario perché i migranti non si concentrino a Lampedusa o nel sud. L'intero paese deve fare i conti con il problema. Allora ribadisco che la quota fissata a 40.000 persone può essere solamente una base iniziale sulla quale lavorare. Ecco, questa era Birgit Sippel, europarlamentare socialista al Parlamento europeo. Abbiamo ancora un momento per ricordarvi una notizia invece che riguarda la Grecia, le recenti voci circa l'eventuale applicazione alle banche elleniche di controlli sul flusso dei capitali, ieri hanno prodotto di fatto prelievi per 300 milioni di euro. Insomma, una corsa agli sportelli che ancora non ha assunto la portata di quanto accadde a Cipro. Ecco, Dombrovskis, che sentiamo, Dombrovskis, quindi il commissario responsabile per l'euro, è tornato sul negoziato con la Grecia, dice: il negoziato tecnico prosegue, stiamo facendo progressi, ma restano ancora diverse aree da discutere, compresi i target di bilancio. Così Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, spiegando come ci sono tutte le ragioni per procedere il più in fretta possibile, visto che siamo già ben oltre la scadenza che era stata fissata alla fine di aprile. Ecco, questo è tutto per queste notizie dall'Europa. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.